Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Alle 10 e 7 minuti è il momento di aprire i vostri armadi e guardare se fra i vestiti c'è qualche scheletro nascosto, perché oggi parliamo non tanto di scheletri in armadio, che sono cose grosse probabilmente, ma di piccoli e grandi segreti. Tutti li abbiamo, tutti li dovremmo custodire. Poi in realtà il segreto è la cosa più bella per alcuni, non credo per me. Io sono uno che riesce abbastanza a tenerli, già questo abbastanza fa pensare, però sì, cioè se si confida qualcosa è una confidenza e non si fa e non si racconta ad altri, però insomma ce l'hai lì, che quando non sa conoscere il segreto di qualcuno ce l'hai lì per raccontarlo a qualcun altro. Già il segreto se n'è andato a farsi friggere, ma quando siano i propri segreti anche lì si vogliono tenere tali, e poi però a un certo punto a qualcuno lo vuoi raccontare, no, non ce la puoi fare, per cui comunque sia i segreti esistono. Oggi vogliamo conoscere i vostri, se li avete avuti per esempio, se li avete ancora, non raccontateci se no perdono la segretezza, ma se volete farlo ci fa soltanto piacere. Avremo ospiti che ci racconteranno dei loro segreti e di quelli anche di altre persone, visto che hanno scritto in proposito, e poi anche i vostri interventi, come sempre con gli sms al 349-238-6666 oppure via Facebook alla pagina del riposo del guerriero. Ma anche oggi cercheremo di farvi entrare alla mostra di Milano, che Venezia, il Manè Ritorno a Venezia. La possibilità di andare a Palazzo Ducale e vedervi questa mostra, se riuscirete ad associare una canzone che vi farò ascoltare a un titolo di una delle opere di Manè, e la canzone è questa. Anche se la versione, quella di Danny Williams, la canzone è molto famosa, è stata la colonna sonora di un film altrettanto conosciuto, interpretato da una donna splendida, e questa canzone ha a che fare col titolo di un'opera di Manet. Dovete rispondere più tardi, intorno alle 11.45, potete prenotarvi da adesso, 800 24 00 24. Aprite i cassetti, aprite le lettere, aprite gli armadi, tirate fuori i vostri segreti e raccontateceli dopo Madonna. Avrete riconosciuto sicuramente la voce di Madonna, che era giustissima per introdurre l'argomento di oggi, appunto i segreti. E Deborah Attanasio, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a te. Allora, prima di rivelare tutto, perché molti ascoltatori ancora non sanno perché sei qui, tu hai avuto un segreto che adesso non lo è più per niente. No, è un segreto che 20 anni fa mi creava dei problemi, adesso quando lo racconto ricevo tanta ammirazione, allora ho deciso di scriverci un libro. Ecco, senti, tra poco riveleremo appunto qual è questo segreto, ma secondo te se tu facessi lo stesso mestiere oggi avresti lo stesso problema che avevi 20 anni fa oppure no? Forse no, più che altro oggi non potrei più fare quel mestiere, perché quel tipo di settore di lavoro che ho fatto non esiste più, secondo me. E poi ti spiegherò anche perché. Ah, va bene, quindi dici è morto, uso questo termine, però purtroppo, insomma, anche tutto quello che c'era intorno. Quindi. Sì, non c'è più il divismo di quel settore lì. Ecco, allora Deborah Attanasio da pochissimi giorni ha pubblicato un libro, è una sorta, non è un romanzo, è proprio una storia vera, è un racconto. Sì, è un memoir romanzo. Sì, perché lo si legge come se fosse un romanzo, con una protagonista all'inizio un po' spaesata, e parecchi episodi imbarazzanti li ho dovuti tagliare, perché era un manoscritto di 600 pagine. Quindi, quindi non interessa la parte che hai tagliato, sì. Te lo dico subito. E tu quando sei andata a fare il colloquio, Sapevi cosa avresti incontrato oppure a chi avresti incontrato oppure no in quel momento? Sapevo benissimo chi stavo andando a incontrare, ma pensavo che sarebbe andata molto peggio, invece, cioè pensavo di dover affrontare delle situazioni che invece non si sono mai Ma è verificate. stato molto divertente alla fine. Moltissimo. Ne parliamo tra pochissimo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. I segreti nel riposo del guerriero, Debo Natanasio, quando, hai detto 20 anni fa, giusto? Sì, più o Sì, meno, 93, una cosa del 21 genere, anni fa, 21 sì. anni fa, e si è presentata in questo posto perché, Cercavo lavoro, come segretaria. sì. Avevo un amico di amici, insomma, che mi aveva suggerito che in questo posto era andata via la segretaria e mi ha detto vienici tu, perché avevo fatto una serie di colloqui di lavoro dove mi avevano messo tutti le mani addosso. Ma davvero? Sì, è stata una cosa tristissima. Ricordo un imprenditore addirittura col righello mi ha alzato la minigonna e lui mi ha detto adesso ti porto io in un posto dove non ti darà fastidio nessuno, mai. Scusa, rido Sì, è il perché colmo, è il colmo, infatti. beh, Sì. certo, però è anche giusto che, a parte che non dovrebbe succedere mai in Da nessuna generale. parte, Vabbè, certo. ok. Poi ci fai l'elenco dei posti dove sei stata prima, allora li Per mettiamo sul fortuna libro hanno chiuso nero. tutti. Hanno chiuso tutti, ecco, va bene. L'imprenditore è morto, quello mi Allora, alzò. Debora Tanaso si ritrova a fare un colloquio per questo mestiere dove nessuno le avrebbe mai messo le mani addosso e hai accettato poi il lavoro. Immediatamente, Sì. immediatamente. Il colloquio si è svolto così, ho incontrato questa persona che è un personaggio famoso e mi ha fatto un paio di domande sul mio segno zodiacale, mi ha chiesto se parlavo l'inglese, quindi mi ha chiesto le mie qualifiche e poi mi ha portato in una stanzetta dove ho detto adesso lo picchio se mi tocca e Ti sei invece fidata in quel momento, sì, però per ovviamente. fortuna siccome era una persona mingherlina ho detto va bene, gli do una spallata e lo butto giù. E invece ho aperto una finestra e sono entrati dentro questa stanza 22 gatti. E mi ha chiesto se mi piacevano i gatti, dandomi sempre del lei, tra l'altro, mentre gli altri mi avevano sempre dato del tu. Mi ha chiesto se mi piacevano i gatti, se potevo, oltre a svolgere i miei incarichi di segretaria, ogni tanto fare un po' di coccole a questi gatti, dargli una spazzolatina. Io ho accettato perché sono appassionata di animali. Tu devi sapere, scusa se ti Sì. interrompo, io avevo fatto qualche settimana fa una puntata sui gatti Sì. e Questa tu avresti dovuto essere una delle ospiti perché avresti dovuto raccontare quel particolare. Ecco, episodio. invece poi abbiamo preferito, insomma, ospitarti qua per raccontare altro. E quindi tu cioè, sei trovata davanti a questi gatti, 22 sono tanti però. 22 Sì. gatti, sì. Tutti con vari nomi di donne, perché la Sì. maggior parte erano femmine, Sì. di donne che ruotavano intorno a questo posto di lavoro, che erano, diciamo, la materia prima di questo lavoro. Adesso sveliamo tutto, ovviamente, cioè parliamo dei personaggi famosi che non abbiamo ancora citato, e diamo i nomi e i cognomi, Sì, si i può gatti si fare. chiamavano Moana, Cicciolina, Milli d'Abbraccio, eccetera, eccetera. Erano tutti i nomi delle pornostar di Riccardo Schicchi e la persona con cui avevo fatto il colloquio era Riccardo Schicchi. Ecco, tu quindi quando hai cominciato a lavorare per la sua agenzia, che si chiama Diva Futura, Si dico chiamava bene? Diva Sì. Futura, sì. No, A tua madre cosa hai detto? Mi hanno presa. la sera stessa sono rientrata a casa e ho detto, mamma, ho trovato un lavoro. Però in un'agenzia pornografica. Mia madre lì per lì, no, la risposta immediata è stata: era proprio quello che sognavo per te da bambina. Vabbè, insomma, ironica, ecco. Sì, poi mia madre viene da una buonissima famiglia dove, che frequentava Pascoli, D'Annunzio, quindi ho detto: ma come mi hai sempre detto, volevi che entrassi, insomma, che avessi a che fare con persone famose, lei magari ha altro tipo di fama. Però poi, siccome mi conosceva bene, mi conosce bene mia madre, sa che avrei svolto anche questo lavoro con tutta la dignità possibile, ha detto va bene, vediamo un po'. Però comunque dopo una settimana l'ho vista piombare in ufficio perché voleva vedere un po' com'era la situazione e conoscere Schicchi. Sì, anche perché magari, cioè va bene, tu gli hai raccontato tutto, però qualche dubbio poteva averlo, no? Sì, Se facevi veramente la segretaria, sì, è ecco. venuta a Sì, verificare che fosse veramente E così. tu facevi veramente la Facevo segretaria. veramente la segretaria, la facevo anche bene, molto bene. Ai tuoi amici cosa raccontavi? Io e i miei amici l'ho raccontato Subito. sempre, Anche perché subito. in fondo c'è niente di male, voglio No, per me dire. non c'era. Ma e poi mi sono resa conto che per me non c'era niente di male, per gli altri, per non tutti era una cosa così semplice. Infatti, purtroppo c'è stata una selezione di amici, perché molte amiche mi hanno mollata pensando che Non so, forse che gli contagiassi qualche cosa che rovinava la loro reputazione e quindi mi hanno mollata. Maschietti, qualcuno ha cominciato a equivocare, hanno detto, oh, non avrei pensato che tu eri in grado di fare un lavoro del genere, e quindi erano diventati un po' più audaci. Insomma, alla fine c'è stata una scrematura e quelli che sono rimasti poi in realtà è gente che frequento ancora. Io Quindi. strabuzzo un po' gli occhi perché mi sembra assurdo, cioè se la segreteria di un posto di lavoro è un posto di lavoro, al di là di tutto, a parte che anche il lavoro in sé, cioè non mi farebbe strabuzzare gli occhi, uno ha deciso di fare quel mestiere e fa quel mestiere, poi insomma, se vogliamo fare una questione morale facciamola, non è però questo il caso. Mi dispiace per i tuoi amici, forse li dovevi perdere, al di là, li avresti persi anche per altri motivi Beh, probabilmente, poi no? c'erano dei paradossi morali perché la prima che mi abbandonò era una mia amica che lavorava per una. Adesso non voglio Sì, prendermela con però. le sigarette, però lei lavorava per una compagnia di tabacchi e io ho detto: Ma come te la prendi con me? Voi fate venire il tumore ai polmoni. E invece no, secondo lei era più grave il fatto che facessi qualcosa di licenzioso. Vabbè, siamo in un Ecco, paese cattolico in sì. questo senso. Gianfranco Angelucci, buona domenica. Gianfranco Buona domenica, buongiorno. Angelucci ha pubblicato da pochissimo un libro intitolato Segreti e bugie di Federico Fellini, il racconto dal vivo del più grande artista del Novecento. Misteri, illusioni e verità inconfessabili. E Gianfranco Angelucci, in realtà questa è una sorta di biografia di Federico Fellini, i segreti di cui si parla nel titolo del libro e le bugie sono semplicemente una quotidianità del regista. Non è una biografia perché è un racconto, Sì. non è un saggio, è un tentativo di raccontare Fellini che è stato così una specie di artista epocale e che quindi si presta nella sua vita, nella sua opera immensa, si presta ad essere raccontato come una grande favola, in cui trovano posto naturalmente tanti aneddoti, tante situazioni e le caratteristiche del suo temperamento, che era un temperamento sicuramente sfuggente, ma nello stesso tempo affascinante, perché Federico era una macchina da cinema, cioè tutto quello che faceva, viveva, pensava, sognava, andava a finire poi nella pellicola, andava a finire nella sua immaginazione cinematografica. In tutto questo era diventato un personaggio quasi più potente e più celebre dei suoi film. Moltissimi conoscono Federico Fellini di nome oppure per la sua icona pubblica, purtroppo molto pochi in questi nostri anni, in questi nostri ultimi anni ne conoscono l'opera, hanno visto i film. Allora mi sembrava che avendo speso gran parte della mia vita al suo fianco, mi sembrava che fosse anche un mio sicuramente piacere, ma anche un mio dovere restituirlo agli altri nella fantasmagoria, nel fascino, nella luminosità in cui ho potuto apprezzarlo e viverlo io stesso, insomma. Ecco, questa traspare, devo dire, molto dalle pagine. Appunto, poi Angelucci ha deciso di non dividere in capitoli il libro, ma di raccontarne, appunto, le vicende, gli aneddoti, in modo da dare proprio quest'idea, no? Di circo, tra virgolette, Sì, della sì, vita sì. di Fellini. E mi viene da pensare una cosa, sul fatto proprio della sua popolarità, no? E anche la voglia di averlo vicino, perché aiutava a sognare anche agli altri, no? Attraverso i suoi occhi. E questa leggevo del fatto di chi lo voleva, di chi l'ha voluto come attore nel proprio film. Parlo del Tassinaro, per esempio, dove Soldi Sì, si è Alberto inventato una Sordi. scena e per avere Fellini in macchina dico: adesso sei qua con me e fai quello che dico io, non è più il contrario. Dico bene? Sì, prigioniero. Ma Federico ha rappresentato, sì, hai detto benissimo, ha rappresentato un po' la rivelazione per chi gli si accostava o per chi si accostava ai suoi film. Federico era un donatore di libertà. Tramite la propria testimonianza, cioè facendo un cinema autobiografico, fra virgolette, perché poi non era sicuramente un cinema di gossip, ma un cinema che si riferiva proprio al suo vissuto, senza pudore, questo fatto veramente senza nessun riguardo, ecco, si poneva come un testimone principe, un compagno di strada, uno a cui ti potevi affidare, uno a cui erano successe le cose prima che accadessero a te. E Federico in questo era veramente una luce, la Cinecittà, insomma le maestranze abbastanza note lo chiamavano il faro, un po' perché il suo cinema era un cinema ancora di un'Italia prospera, quindi di produzioni che potevano permettersi film con settimane e settimane di lavorazione, dove trovavano lavoro tantissimi figuranti, comparse, generici, e quindi Federico diventava un po' un terrain vague, diventava una cattedrale in cui si potevano anche radunare tutti i diversi, tutti gli emarginati di Roma. Insomma, quando Federico apriva un set e cominciava il casting, era veramente una processione infinita di facce, di individui, di temperamenti, di caratteri che venivano a sfilare Cinecittà per trovare un posto nel film di certo. Cittadini. E noi devo dire che noi spettatori poi potevamo godere soltanto di quelli scelti, e invece sarebbe stato bello poter rivedere tutti, no? Quelli che si presentavano. Sì, è vero. Comunque ci sono anche dei molti fuoriscena, ci sono dei backstage che raccontano anche il dietro le quinte di Fellini, qualcuno ne ho diretto io stesso, e questo racconto io credo, continuo a chiamarlo così, insomma, perché come hai detto giustamente tu, non ha capitoli, è un'unica immersione nel personaggio, nei suoi incontri, nelle sue vicende, nelle sue donne. Gianfranco, il rapporto con le sedute spiritiche, a parte quello con le cene di Fellini, che amava molto mangiare, ma è giusto perché è proprio un aspetto dell'edonismo, no? Che non può assolutamente mancare. Ma questo invece, questa versione spiritistica proprio, non dico spirituale, ma spiritistica di Fellini, io non la conoscevo personalmente. Ma Federico aveva un rapporto molto profondo con l'inconscio, e quindi un profondo rapporto con l'irrazionale, che suggeriva anche agli altri, dovunque esso fosse, insomma. Bussare all'irrazionale, bussare a una porta che si può aprire anche in un solo spiraglio, in un momento in cui tu sei disorientato nella vita, non sai a che santo votarti, riteneva che potesse essere una via d'uscita, e in ogni caso era la sua curiosità per il dopo, quella che ha espresso in quasi tutti i film, che ha espresso in maniera estremamente lucida nel suo ultimo film testamentario, che è stata La voce della luna. Ecco, ma lui ci credeva davvero, cioè quindi pensava di avere ogni volta un contatto con l'aldilà, oppure frequentava, diciamo così, quegli ambienti, ma ne era comunque scettico, quindi era soltanto un modo per ancora una volta sognare. Non era scettico Federico, aveva un'apertura che racconta benissimo in una sequenza di 8:30, sì, quando i due maghi, i due telepati, a un certo punto alla fine del gioco, in cui Mastroianni ha pensato una parola enigmatica che la maga non riesce a capire, che si chiama Asanissimasa, che è un camuffamento infantile per la parola anima. Ma Marcello Mastroianni si avvicina a Maurice, il mago dei due, dicendo: ma voi avete sicuramente una chiave fra voi due di accordo? E Maurice gli dice: sì, abbiamo una maniera di intenderci, però qualcosa accade davvero. Ecco, questo qualcosa accade davvero è quello spiraglio minimo in cui Federico metteva tutta la sua fede. Cioè, tutto può essere trucco, anzi deve essere trucco nell'arte, perché se no non esiste. Cioè, la vera, come ha ripetuto infinitamente, il vero realista è il visionario nell'arte. Però c'è qualcosa che è indefinibile, inafferrabile, che ti porta a contatto di una materia che non ha giustificazioni e razionalità. Ecco, lì dentro, che poi c'è il sogno, c'è la psicanalisi, c'è la ricerca del diverso, lì dentro abita proprio la poetica e il cinema di Fellini. Ecco Gianfranco, ti lascio con una curiosità, e visto che oggi nella puntata si parla di segreti, no? E di bugie e di segreti in fondo, e c'è qualcosa che tu non hai raccontato e non lo farai mai di Fellini? Beh sì, pettegolezzi, tutto il resto l'ho detto, okay. L'ho detto, insomma, anche cercato di indagare su questo possibile mistero che univa lui a Giulietta Masina, che poi segna l'inizio della strada e finché ha il primo premio Oscar, e che assicura alla coppia Fellini e Giulietta un successo universale. Questa storia assolutamente misteriosa di una bambina che viene venduta dalla madre per 10.000 lire a un saltimbanco, e poi nella straziante musica inventata da Nino Rota, sì, è come se ci fosse il rimorso di qualche cosa di cui non si riesce a capire, e fosse nascosto il segreto dei due personaggi, che io cerco di rivelare come una favola anche qui, insomma. Lei ha fatto molto bene, grazie Gianfranco Angelucci, buona domenica. Grazie a te. Grazie. Buon lavoro, ti ricordo il titolo del libro Segreti e bugie di Federico Fellini, racconto dal vivo del più grande artista del Novecento. Misteri, illusioni e verità inconfessabili. Pellegrini Editore. E intanto leggo solo un messaggio perché la dice lunga, prima della pubblicità poi continueremo a parlare con Deborah Attanasio. Mi auguro che la scienza non riesca mai a leggere i segreti nel cervello. Il riposo del guerriero. Prima abbiamo parlato di Federico Fellini e insomma La dolce vita immagino l'abbiate visto, e si parla di paparazzi e poi parliamo proprio anche di quell'aspetto, quello del gossip, ma tra pochissimo lo facciamo, chiedo quindi all'ospite di avere un attimo di pazienza. Allora, Deborah Attanasio, non dite alla mamma che faccio la segretaria, questo è il titolo del libro, e penso che una volta bisognava anche dire che si faceva il pubblicitario, ecco, sì, infatti, per cui, insomma, un titolo po' viene da lì, viene è un omaggio, ecco, va bene, grazie, perché arrivo invece da quello, me lo dicevo tranquillamente ma sono arrivato anche un po' più tardi. Allora, ti sarà capitato qualcosa comunque di curioso all'interno dell'agenzia di Schicchi, qualcosa che non ti aspettavi magari neanche tu? Quasi tutti i giorni succedeva qualcosa di curioso. Ma lì il curioso era più che altro che accadeva al contrario di quello che ti aspettavi, come già ti ho spiegato prima. Insomma, episodi buffi. Devo dire che le porno star, per esempio, non è che la offrissero su un piatto d'argento a chiunque passasse. Assolutamente no. No, infatti ho raccontato nel libro che c'è stato un momento in cui stavo aiutando Milly D'Abraccio a trovare un fidanzato. Perché oltre a quello che faceva sul set, che poi la gente pensa che le attrici la mattina si sveglino e vadano sul set tutti i giorni, non è vero, perché magari fanno 2 o 3 film l'anno e per fare un film basta una settimana, quindi la loro attività in realtà è circoscritta a 3 settimane. E quindi poi il resto della vita, insomma, è la vita normalissima, sì. Si svegliano tardi, a meno che non hanno dei figli da portare a scuola, perché come Milly D'Abraccio che ha dei figli da portare a scuola, un bambino. Però poi dopo hanno anche loro problemi sentimentali, quindi si usciva magari la sera e si cercavano dei fidanzati, così come lo cercavo anch'io allora. C'è una porno star con la quale è legato più delle altre? Eva Enger. Perché? Perché è arrivata, a parte che lei l'ho conosciuta prima di Riccardo Schicchi addirittura, perché l'amico che l'aveva, cioè me la presentò l'amico che poi mi ha portato da Riccardo Schicchi, e mi aveva fatto subito un'ottima impressione perché si vedeva che era una ragazza, lei è figlia di un direttore di conservatorio, dei gusti molto particolari sulla musica, sull'arte, quindi mi era piaciuta subito, una ragazza molto discreta, educata, gentilissima. E quindi poi quando si è fidanzata con Schicchi io facevo il tifo per lei perché ero contentissima che era sbocciato questo grande amore, perché Schicchi era innamorato perso di Eva. E poi piano piano ha fatto di tutto per perdersela. Si innamorava spesso Schicchi delle sue donne? Schicchi era un romanticone. Dico sue donne nel senso che lavoravano per lui, attenzione. Donna. Spesso, cioè spesso no, lui in un certo senso amava a modo suo tutte quelle che lanciava. Però i veri grandi amori sono stati 3. Ilona Staller, lui era veramente innamorato. Lui mi raccontava sempre questo aneddoto di come l'aveva conosciuta. L'aveva vista come modella su un giornale e quindi è andato ad aspettarla fuori della redazione di questo giornale dove lei si era recata e si è fatto trovare a testa in giù per strada. Quindi lei non ha potuto non notarlo, si è presentato. Lui era proprio il ragazzino sfigato, come si diceva. E poi mi raccontava sempre il momento romantico quando finalmente l'ha sedotta perché l'ha portata nella pineta di Ostia e l'hanno fatto per la prima volta sul cofano della sua Diane e da lì scoppiò questo grande amore che è durato 18 anni segretamente perché la gente non sapeva che facevano coppia. E neanche tu lo sapevi? Ma al tempo io ero bambina, quindi però io lo avevo immaginato, insomma si capiva che era, anche se lui andava in giro a dire che era vergine, non so se ve lo ricordate. E poi dicesse questo. No, perché io da bambina stranamente ero molto attirata dagli articoli e le interviste sia di Ilona Staller che di Riccardo Schicchi, quindi mi ricordo e ridevo perché lui scriveva, cioè dichiarava sempre che lei era vergine, ma non ci credeva nessuno, era anche divorziata tra l'altro. E poi dopo che, cioè quando Ilona Staller invece si è innamorata di Jeff Koons, lo scultore americano, Lui all'inizio pensava che fosse un'operazione commerciale, cioè che lei lo facesse per lanciarsi, invece lei aveva tutte le intenzioni di sposarlo e di Sarei andarsene. innamorata. Lei si era proprio innamorata, quindi quando è andata via, infatti lui è andato in coma dallo shock, è stato ricoverato e poi vabbè, comunque sono rimasti sempre in contatto. E quindi la reazione è stata che ha conosciuto Mercedes Ambrus, che era una ragazzina di 19 anni, bellissima, una bellezza sconvolgente, e lui prese una batosta per questa ragazza spaventosa. Io arrivai in quel periodo lì, cioè era appena andata via Ilona, e era arrivata questa ragazza che però invece aveva un sacco di problematiche sue. Per cui sì, gli dava corda, poi faceva un passo avanti, due indietro, insomma, non si Aveva capiva. sempre 19 anni, ecco, Sì, voglio poi dire. vabbè, sono passati 2 o 3 anni così con un tira e molla. Lui mi raccontava ogni volta che veniva a Roma, mi raccontava che avevano dormito insieme, lei non si era fatta toccare neanche con un dito. E quindi poi a un certo punto anche la pazienza di Riccardo finì. E lì subentrò Eva Enger e lì poi è stato veramente il grande amore perché è l'unica donna che ha sposato poi. Paolo Pedote, buona domenica. Buona domenica a tutti. Filosofo e scrittore, da poco pubblicato Gossip, dalla Mesopotamia ad Agospia. Un lungo viaggio. Ma lunghissimo, perché il gossip c'è sempre, fino all'uomo delle caverne c'è sempre stato il gossip. Pare proprio di sì. Parli proprio di sì perché un antropologo Sì? che ha studiato a fondo gli ominidi di 250.000 anni fa, un certo Dunbar, praticamente ha riscontrato che nei primi gruppi di uomini che insomma si associavano per sopravvivere, la pratica del gossip è diventata un po' quello che è stato per i primati il grooming, cioè lo spulciamento. Rafforzava cioè il gruppo, lo rendeva più unito, rendeva praticamente il gruppo più coeso perché proprio conoscere alcuni aspetti privati della vita degli altri consente in qualche modo di autodifendersi. Per esempio, perché infatti il gossip nasce proprio per questo, no? In realtà tutti pensano che il gossip sia una cosa molto, molto banale delle portinaie, in realtà non è così, nasce proprio per difendersi dai soprusi del potere, da un lato. E quindi fin dall'antichità veniva praticato a fianco naturalmente alla comunicazione formale, cioè al conteggio dei capi di bestiame, ecco, c'era la narrazione di quello che accadeva nelle stanze del potere. Naturalmente segreti, insomma, ecco. Ecco, segreti che poi sono anche un po' cambiati nel corso del tempo, perché tu hai fatto questa lunga analisi e hai anche raccontato molto bene come il gossip è cambiato, perché oggi è un po' un'altra cosa, cioè addirittura parlando di politica, per esempio, il gossip, ma forse anche un po' nel calcio, no? Cioè nello sport, in particolare nel calcio, perché siamo in Italia, il gossip ha superato poi la reale capacità dell'individuo, o mi sbaglio? Certo, sì, infatti, perché se prima nasce come una condizione necessaria per conoscere alcuni elementi di ciò che succede nelle stanze dei potenti, cambia il mercato proprio della notizia, cambia l'informazione. Nel Settecento, per esempio, nascono i periodici, nasce il giornalismo e nei primi del Novecento nasce la notizia, diciamo, giornalistica specifica di gossip, che ricordiamolo, non vuol dire nient'altro che pettegolezzo, cioè la parola gossip significa nient'altro che pettegolezzo. E è chiaro che in questo contesto, emerge sempre la figura dell'uomo pubblico, dell'uomo di potere, e quindi appunto, calciatori, personaggi pubblici del cinema e personaggi pubblici soprattutto nella politica soprattutto in questi ultimi 15 anni. Diciamo che lo spartiacque vero e proprio è stato il caso Levinsky, Clinton-Lewinsky, sì. cioè diciamo che da quel momento in poi il gossip ha deflagrato completamente, ha esondato e ha riguardato moltissimo gli ambiti Ecco, politici. credo che un po' il meccanismo sia così, no? Quando ti viene riferito un segreto da parte di qualcuno, ti senti più amico di questa persona, no? Perché sai di custodirne un segreto. Certo. E allora, invece, quando si tratta di personaggi irraggiungibili, tra virgolette, conoscere o pensare di conoscere un segreto ti fa sentire quasi amico, no? di quel personaggio, anche se poi lo sanno tutti perché se lo leggi tanti lo leggono, ma in quel momento lo vivi un po' personalmente, quindi forse ti avvicina di più, quindi è necessario da quel punto di vista. Certo, soprattutto sono tutti processi di identificazione. Basta pensare che una volta il gossip, sì, per esempio, la differenza grandissima che c'è tra il gossip americano, quello che ha iniziato negli anni 20-30 con i grandi colonnisti americani come Walter Winchell oppure Lowell Parson, fino a Edda Hopper, e per passare poi al gossip del cinema italiano, no? Cambia completamente. Rita Hayworth era quella stella irraggiungibile, il massimo della costruzione mediatica dell'Hollywood, di Hollywood di quel periodo. Poi invece c'erano le nostre attrici nostrane, come appunto Sofia Loren, come la Lollobrigida, che erano invece personaggi che si potevano incontrare, per esempio al ristorante, insieme ad Alberto Sordi, insieme a Ettore Scola. Cambia completamente proprio la proposizione del gossip, però questo elemento è fondamentale perché c'è l'identificazione. Oggi abbiamo un'identificazione che va oltre, no? Perché il caso, lo scandalo si associa sempre di più, per esempio, al caso di cronaca terribile, oppure delle morti violente. Basta pensare come per esempio è stata indagata la vita di Whitney Houston o Amy Winehouse, che sono due tragiche morti dovute anche appunto ad aspetti privati e personali molto forti, perché lì c'è di mezzo la tossicodipendenza, addirittura in Whitney Houston c'è di mezzo la criminalità perché era stata ricattata, insomma delle storie e delle vicende molto complesse. Ecco, queste vicende se ne sono occupati fondamentalmente i giornali, i siti di gossip. Ecco, senti, tu citi anche il Cafonal, tant'è vero che arrivi ad Agospia, no? Nel sottotitolo del libro. Sì, è una sorta di coronamento, cioè Agospia è la filosofia proprio del Cafonal, però è qualche cosa di profondamente, cioè nel senso che è una cosa molto importante. D'Agostino, Roberto D'Agostino ha avuto una pensata veramente geniale. Innanzitutto il suo sito ripercorre un po', diciamo, la grafica e non solo di un altro sito americano, che è stato quello che in qualche modo ha portato alla luce lo scandalo Lewinsky e Clinton. E poi oggi se basta pensare che il sito di D'Agostino, di D'Agospia, è praticamente uno dei siti più letti, a fianco ai grandi contenitori come ANSA, eccetera, di notizie, cioè un punto di riferimento. Nato tra l'altro anche in tempi non sospetti, no? Cioè ha anticipato moltissimo altri siti che poi sono nati a ruota dopo, anche se ha quell'impatto che solo quello ha. E, Paolo, volevo chiederti questo, quanto c'è di vero nel gossip? Tutto e niente. Beh, è una non risposta. Il gossip ha questa grande... Il gossip è una... Cioè non lo sai? Ecco, il gossip questo è una costruzione mediatica di notizie, anzi una costruzione mediatica di notizie che si trasformano in storie, è fiction allo stato puro, quindi è tutto vero forse perché è tutto falso. Ecco, quindi tu non saprai mai se è vero o meno, ti piace crederlo ma non lo sai. Beh, noi grazie al gossip conosciamo delle cose pazzesche della vita degli imperatori romani, come della vita nella corte di Luigi XIV, perché sono state raccontate da Svetonio piuttosto che dalla principessa Palatina, che ha raccontato, per esempio, la principessa Palatina ha raccontato la sua vita coniugale con il fratello di Re Sole, che era fondamentalmente gay. Cosa c'è di vero in tutto quello che ha raccontato? Probabilmente tutto, perché noi conosciamo che cosa è accaduto, quello che è stato la vita di corte, perché ce l'ha raccontato lei, ma non ci sono documenti ufficiali che attestano che ciò che ci ha raccontato la principessa sia vero. È vero. Per cui però da lì possiamo ricostruire. Però è un grande confine, il bello del gossip è proprio qui, cioè la cosa che mi ha incuriosito di questa ricerca, comunicazione, sì, informale, è che travalica, cioè che non, oscilla sempre tra il vero e il falso, che non si può mai stabilire, ed è la condizione umana per eccellenza. Cioè noi la verità assoluta non la sapremo mai, la possiamo soltanto pensare o ipotizzare, ma noi non avremo mai la verità assoluta sulle cose, e il gossip è proprio per quello che è il compimento forse della nostra civiltà, all'Occidente, è naufragata in questa forma di comunicazione che ormai è presente da tutte le parti, no? Ecco, chissà se i nostri ascoltatori poi lo leggono, lo seguono, oppure invece sono assolutamente alieni dal gossip. Vorrei saperlo al 349-238-6666, sono curioso di conoscere la visione delle cose. Io prima ho sbagliato, perché non è stato appena pubblicato, ma sarà pubblicato fra 4 giorni il tuo libro, quindi non è in libreria in questo momento, lo troverete la settimana prossima, dalla fine di maggio. E allora, Paolo Pedote, gossip dalla Mesopotamia ad Agospia. Grazie Paolo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Il riposo del guerriero. Intanto arrivano anche i vostri messaggi, il vostro rapporto con i segreti, chi riesce a mantenerli e chi meno. Poi vedremo anche qual è il meccanismo psicologico. Debora, avevi raccontato che Milly D'Abraccio a un certo punto cercava un fidanzato e l'ha aiutata a cercarlo. Quali caratteristiche avrebbe dovuto avere questo fidanzato per lei? Ma non c'era una... Non ti ha chiesto? No, così, non mi ha chiesto così, niente così. Di particolare. Niente. No, uscivamo, frequentavamo. Certo, lei avrebbe, le sarebbe piaciuto un politico, mi ricordo. Sì. Sì, sì. Infatti era un po' fissata con Bossi, non so perché, che poi lei era di Avellino, quindi con Bossi penso che avrebbe avuto poche speranze. Però, insomma, però poi, l'Unione no. d'Italia, no? No, poi è andato a finire che trovò un bellissimo fotomodello molto più giovane di lei, con cui ha fatto un figlio, e tra l'altro sono ancora in contatto anche con lui. E quindi insomma alla fine poi c'era riuscita. Via. Ci sono dei segreti che non hai e non vorrai mai svelare? E alcune cose molto pesanti non le ho raccontate. Sì, ecco. A nessuno? A parte il libro? No. Cioè, le condividevo con... erano segreti che condividevo con Schicchi e con un altro paio di persone che devono rimanere... Segreti? Segreti, sì. Quelli non si ne sai, sai il segreto? Appena lo sa una persona in più è lì già un punto di domanda, perché non sai gli altri poi. Vabbè. Massimo Bracci. Buongiorno. Ciao. Allora, grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici soprattutto. Insegnante di filosofia, ecco, sì. Lui dice così, Massimo Bracci, io avevo chiesto di Milly D'Abraccio proprio a Debora un attimo fa, solo perché tu hai scritto Il compagno perfetto, come trovare l'uomo dei tuoi sogni, cioè la prima volta che un uomo scrive, perché di solito questi libri scrivono le donne, no? Esattamente, ecco. Proprio questa la novità. Certo. Il segreto è che solo un uomo può dire... quali sono i segreti per trovare il compagno perfetto. Ecco, finalmente. E una donna può suggerire a un'altra donna il punto di vista femminile. Sì, e invece... Noi, io e l'altro autore, vediamo qual è invece il punto di vista maschile, come veramente si può raggiungere il compagno perfetto, come si può comunicare, come si può riconoscere. Ecco, com'è che si può riconoscere? Da uomo però, ovviamente. Da uomo? Beh, io cioè, non nel senso che tu l'hai scritto come donne, uomo, e lo so, certo, ma da uomo, cioè la tua visione delle cose, no? Come poterti riconoscere, ecco, attraverso l'occhio di una donna? Beh, questa non è la domanda di cui ci occupiamo, in fondo. È la donna che deve riconoscere qual è il compagno perfetto, deve evitare gli errori, liberarsi dalle paure e saper riconoscere qual è il compagno perché perfetto perché le donne per che paura avrebbero quando sono di fronte a un uomo? No, quando sono di fronte a un uomo, le paure sono magari le paure delle esperienze precedenti, magari quelle che le ferite lasciate dalle delusioni del passato, le brutte esperienze, le quali poi si cristallizzano in, diciamo così, abitudini che ci portano a sbagliare nella ricerca del compagno perfetto. Sì, e cioè il passato che ritorna, la paura del passato, del brutto passato che possa ritornare. Anche, e questo porta soprattutto al formarsi dell'idea che il compagno perfetto non esista, che tutte le storie finiranno con una delusione. Invece il primo concetto di cui noi ci occupiamo è che il compagno perfetto esiste, assolutamente, per tutte. Ecco, un'obiezione che ci hanno fatto, ma se posso fare un esempio, sì. La donna timida o riservata che dice per me il compagno perfetto non esiste. Oppure la donna che dice alla mia età non potrò più trovare il compagno perfetto. Ecco, adesso fermati un secondo perché sono curioso. Siccome Debora Attanasio ha conosciuto tante pornostar molto famose e ne ha conosciute molte altre meno famose che però facevano questo mestiere. E vorrei chiedere proprio a Debora se è così, cioè se loro pensavano che cioè, non troverò mai l'uomo ideale, non troverò mai l'uomo per me perché faccio la pornostar, oppure no, avevano a volte in realtà... a volte qualcuna lo diceva, però erano tutte ottimiste, non mi sembrava che avessero... Cioè non lo vedevano come ostacolo il loro mestiere? No, no, perché poi ovviamente il mondo è bello perché è vario, quindi c'era tanta gente che non si faceva nessun problema. Cioè, se fossi stata un uomo non mi sarei fatta problemi a sposare una pornostar. Ecco, non so Quindi. Massimo Bracci, tu ti saresti fatto problemi a sposare una pornostar, Massimo? Personalmente sì, però la risposta è la dimostrazione che il compagno perfetto può esistere per tutte. Esiste sicuramente l'uomo che accetterebbe di convivere col modo di fare di una Qual è pornostar. l'errore più grande secondo te che fanno le donne quando cercano un uomo? Gli errori sono molti, sono tutti riconducibili alla paura di sbagliare, del passato. L'errore fondamentale è quello di ripetere sempre le stesse azioni che hanno portato a risultati non voluti. Non lo so, se è proprio così, però insomma io capisco che tu abbia fatto un'analisi, per cui posso anche capire. Deborah davanti a me mi sta dicendo no, però è un suo No. modo di vedere. Lei, sai, ha avuto un'esperienza diversa, alla mente più aperta in Ho questo anche una certa età, senso. quindi secondo me L'hai il già problema fatta. principale è che le donne idealizzano il compagno, allora si aspettano delle cose che Che poi non non arrivano. corrispondono a Uno, ma e poi quello è magari un cercano grande di errore che spostare in posso quel modo. Sì, spiegare. devi spiegare, Massimo. Perché è un grande errore? Idealizzare l'uomo vuol dire crearsi molte aspettative, molte caratteristiche, molte qualità che questo deve possedere. Quindi deve essere bello come Raoul Bova e simpatico come Woody Allen, magari. Ma questa è un'autodifesa dovuta alla paura. Potrebbe essere Cioè, anche bello come Woody Allen, perché poi la bellezza è una cosa comunque soggettiva. Ecco. certo. Senti Massimo, no, trovo che, scusa, perdonami, però in Prego. fondo non c'è niente di così nuovo, ecco, rispetto alle cose che si continuano a dire quando si tratta di trovare il compagno o la compagna ideale, Beh, no? il nuovo che c'è nel Sì. nostro libro è il metodo che noi usiamo per far rendere conto la nostra lettrice. Cioè, il nostro metodo funziona attraverso una spiegazione, quindi un tentativo di convincerla attraverso vari capitoli del libro, ma anche una parte pratica, cioè cercare di prenderla per mano, E far avvenire, accompagnarla per a così dire. non commettere quegli errori. Ecco, Sì, per questa. modificare le proprie azioni, non Massimo, sprecare più le proprie energie per cercare in maniera ti devo sbagliata. salutare. Chiedo a Giuseppe Ortolano di aspettare perché andrà dopo il GR. Grazie, Massimo Bracci. Grazie a voi dell'ospitalità. Il compagno perfetto. Come trovare l'uomo dei tuoi sogni? Tu come l'hai trovato, Deborah? Su Ecco, vedi, quindi internet. uno ha il suo sistema e a quanto pare funziona. E tu, abbiamo soltanto un minuto, Sì. facendo la segretaria di Schicchi, eri in Diva Futura, vedevi un sacco di ragazze e donne entrare per proporsi, immagino. No, No. erano molti ragazzi, ma le ragazze erano pochissime, Ah, in molti più realtà. uomini. Uomini almeno 3 al giorno. E scoppiavi a ridere ogni volta che ne vedevi uno, un po' Ma più che sotto i altro baffi, ormai avevo dico. imparato così a colpo d'occhio a capire se avevo davanti uno che aveva un futuro oppure no. Ma ti dico, magari ecco, in 350 provini e fece Schicchi ne abbiamo tirato fuori uno solo che funzionava. Quindi. Qual è il difetto peggiore degli uomini, secondo te, che No, si presentavano lì? l'autostima eccessiva, cioè arrivava il pancione e diceva che era un fisico possente, quello che diceva no, io le metto veramente, cioè le sfondo tutte, invece poi si afflosciava come un soufflé Tu e quindi quindi. dici mai mettersi in discussione se non si mettevano mai in discussione. Il Mai. GR, poi torniamo a parlare di segreti e bugie. Il riposo del guerriero. Le 11:06 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Oggi nel riposo guerriero si parla di segreti, di bugie. Siamo partiti da un libro di Deborah Attanasio. Si intitola Non dite alla mamma che faccio la segretaria. Non peraltro, perché Deborah ha fatto per molti anni nove la segretaria di Schicchi. Infatti, il sottotitolo è Memoria di una ragazza normale alla corte del re del Lard. Stiamo parlando di uomini prima. Come Sì. sono i Oh, pornomariti e chi sono? i pornomariti. Dipende perché qualcuno era segreto. Ad esempio, Moana era sposata, aveva un marito segreto, no? Sì. Eh sì. Gli Ma segreto altri, per chi? segreto per tutti, tranne, oddio, era un segreto di Pulcinella perché poi lei teneva la foto del matrimonio sul comodino. E la gente Quindi. chiedeva, Sì, la scusami. gente chiedeva, lei diceva: no, no, stavamo giocando a Las Vegas, abbiamo Ah giocato, beh, ma poi invece no, quel funziona, matrimonio, cioè lui viveva con lei, conviveva con lei, quindi era un matrimonio a tutti gli effetti. Perché Perché teneva segreto questo matrimonio? lei diceva che era, cioè avrebbe smorzato un po' l'eros dei suoi fans, forse aveva ragione sotto quel punto di vista. No, i pornomariti invece erano. Erano dei personaggi un po' discutibili che Schicchi non amava molto perché lui diceva che spegnevano le sue artiste ed era vero perché poi si proponevano in modo molto aggressivo perché poi in fin dei conti si rendevano conto che una volta che avevano lanciato la moglie, alcuni lanciavano proprio le mogli, magari c'era un problema economico in famiglia e decidevano Dai, vai a fare insieme due questa film, cosa, sì, su. vai, fai due filmetti. Però poi si rendevano conto quando la moglie diventava famosa che loro non servivano più a nulla e quindi si ritagliavano un ruolo da soli che diventava irritante per chi lavorava con E le non potevano fare ragazze. i manager perché c'era Schicchi a fare Eh quello, no? sì, infatti si sovrapponevano, Sì. quindi lui si scocciava perché cercavano di sostituirsi a lui e poi dopo combinava un sacco di guai perché magari andavano ad alzare i cachet che lui aveva già trattato, insomma erano abbastanza irritanti. Poi ognuno di quelli che entrava nell'ufficio arrivava e diceva: "Non vedo il poster della mia, che la mia è la più importante di tutte, no? Ovviamente." Quindi tutte erano le più importanti, le più famose, le più Quindi grandi. secondo te i mariti delle pornostar, o alcuni, insomma, non so se dire la maggioranza o chi, le trattavano come oggetti proprio o No, le amavano comunque? Secondo te è così? ma io non ho Viste mai capito da se fuori? da fuori non si è mai capito. Beh, tanti, per esempio, il marito di Jessica Rizzo è indubbiamente innamorato della moglie, però lì già è un discorso diverso, cioè loro avevano iniziato insieme, facevano i film insieme e Si sono poi... innamorati sul set? No, loro No? erano una coppia, marito e moglie, lei era ragioniera e lui aveva, mi sembra se non sbaglio, una concessionaria d'auto, quindi era un matrimonio normalissimo, poi hanno iniziato a fare gli scambi, poi hanno deciso di fare questi filmettini insieme, ma più che altro era per passione. Poi lui si era reso conto che lei riscuoteva più successo, quindi ha fatto un passo indietro e allora in quel caso lì, insomma lui infatti era un porno marito sui generis perché non era... No, perché ha fatto quel mestiere poi a un certo punto, no? Da quello che ho capito. È un Lui porno marito che ha per un fatto quel pochino sì, per mestiere, un pochino esatto. Quindi lo conosceva da sì, dentro, no, ecco. quindi lui no, lui andava bene, andava benissimo. Però c'erano quelli che invece erano proprio esterni, che la buttavano avanti, forse sì, su quelli avevo qualche dubbio, sui sentimenti di quelli, C'era molto perché rivalità fra pornostar? Puoi tantissima, tantissima. dirci quella Beh, più. posso raccontare quella d'altra parte, abbiamo fatto la presentazione martedì scorso del libro, Sì. Eva Enger stessa ha raccontato la rivalità con Ilona Staller, però lì il problema era un altro, era che tutte e due erano state de donne di Sì. Riccardo e Eva era riuscita a farsi sposare, e Ilona non c'è mai riuscita, non so quanto ci abbia provato. Erano anche altri tempi perché poi Eva ha trovato Schicchi più maturo anche di età, forse gli era preso anche un po' il panico di rimanere solo, non lo so quali sono stati i motivi, però ecco non c'era una gran simpatia fra loro due. E Moana non le detestava tutte, Ah. Moana non le sopportava, le chiamava le rimbambite, le altre quindi non le poteva vedere. Dopo continueremo, ho anche una curiosità su questo, cioè l'aspetto oltre il mestiere, no? Delle pornostar. E Giuseppe Ortolano, buona domenica. 101 Buona domenica a tutti. luoghi misteriosi e segreti in Italia da vedere almeno una volta nella vita. E, se sono, non dovrebbero essere così segreti perché dovremmo andarli a vedere, ovviamente. Tu li hai raccolti, ce ne racconti qualcuno? Ce ne sono Sì, tanti, ce eh? ne sono 101 tanti, appunto. ve ne racconto qualcuno sparsi un po' per tutta la Sì, facciamo penisola. come sempre il nord, il centro e il sud, per Esatto, capirci, sì. allora. Per andare a nord, partiamo da Arnada. Arnada è un paesino in Val d'Aosta, famoso per il famoso lardo. Ma noi lasciamo perdere il lardo questa volta e andiamo verso un santuario, il santuario di Maciabi, sopra il quale c'è la pietra della fertilità. È una pietra liscia, in un posto tra l'altro bellissimo, si raggiunge con una passeggiata di 10 minuti. Nel quale la tradizione vuole che le donne che desideravano procreare dei bambini scivolassero per diventare fertili e quindi poter poi creare dei bambini. È una tradizione celtica che è presente un po' in molti luoghi delle Alpi, ma il sasso di Maciabi è uno dei pochi che è rimasto, che è visibile, che è raggiungibile ed è veramente un luogo fantastico. Ecco, Peraltro sì. il santuario che c'è poco sotto ha sul portone tre colpi di pallottole sparati dai soldati napoleonici che da lì passarono. Ecco. Poi, no, scusa, sì. No, sto semplicemente riflettendo sul fatto che è un luogo che conosco, bene, la Val d'Aosta, e in effetti è un bellissimo posto da visitare, ecco, al di là della pietra. Poi, dove andiamo? Poi scendiamo un pochino, andiamo nel Molise, sì? Una regione abbastanza dimenticata di solito. È già segreta di suo, diciamo. Esatto, è un angolo incantato bellissimo. Se noi andiamo a Petrella Tifernina, vicino a Campobasso, troviamo una chiesa, la chiesa del paese, dove si racconta, ci sono tracce scritte, ovviamente mezze perse, mezze da verificare, dove forse i templari nascosero la sindone di ritorno dalle crociate. La sacra sindone fu portata in Italia dai templari di ritorno dalle crociate. Durante il viaggio pare che lì venne nascosta per alcuni mesi in attesa di momenti migliori per poterla poi riportare più a nord. In questa chiesa ci sono tracce di questo passaggio dei templari e del fatto che lì fosse stata nascosta la sindone. Un posto bello, fantastico, poi il Molise è un'area verde che è proprio incantevole da visitare perché è lui stesso uno scrigno segreto. Spostiamoci più in basso. Ci spostiamo più in basso, andiamo in Basilicata, un'altra piccola regione, e andiamo a Lago Negro. Qua nella chiesa di San Nicola di Lago Negro c'è una tomba che potrebbe essere la tomba di una possibile Mona Lisa. Su Mona Lisa si raccontano molte storie, sì. Non si sa in realtà chi fosse. Una delle tesi più probabili fosse che era la moglie di un ricco commerciante toscano, e di lì veramente questo commerciante passò andando a sud per i suoi commerci. Pare che la moglie si ammalò e morì e fu sepolta in questa tomba della chiesa di San Nicola di Lago Negro. E se realmente Mona Lisa era sua moglie, quella è la tomba di Mona Lisa. Ecco, bene, quindi insomma devo dire che un segreto ben custodito, perché nessuno poi mai riuscirà a capire se sarà veramente così, ma questo è il bello, abbiamo visto anche dei pettegolezzi del gossip e dei segreti in generale. Grazie Giuseppe Ortolano, 101 luoghi misteriosi e segreti in Italia da vedere, ne avete altri 98 da scoprire grazie al libro. Buona domenica, grazie, ciao. Grazie a voi e buon viaggio a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Deborah, allora abbiamo visto appunto, liti ce n'erano tra le ragazze? Sì. Mai senza neanche pensare. Ne ho raccontata anche una nel libro, una fra Eva Enger e Mercedes Ambrus, e poi ne ho vista una fra Ilona Staller e Eva. Ma noi Enger. Ce le immaginiamo che si tirano i capelli, ecco, ti dico, no, così. Invece non cosa succedeva? Più che altro si lanciavano oggetti, quindi. Però, e che poi sempre il centro era sempre la gelosia nei confronti di Schicchi, cioè essere la più ambita da parte del sì, sì, no, ma lui infatti, del manager, cioè, uno lo vedeva così bruttino, gracile, poi invece in realtà era uno di cui si prendevano delle belle cotte le donne, cioè, anche Milita Brac ha avuto il momento della cotta per Riccardo Schicchi, c'era Barbarella. Hai avuto mai una cotta per lui? No, così. Lo sai che lo pensavano tutti, no, in realtà io... Io sempre mi sono sempre chiesta perché provavo questa grande ammirazione per lui. Poi mi sono resa conto che era un po' non il padre, perché l'età, la differenza d'età non era così tanta. Però era forse un fratello, era una figura che ammiravo perché pensavo in un certo modo che mi sarebbe piaciuto anche vedere, cioè mi sarebbe piaciuto un padre che ragionava come lui, ecco. Cos'è la cosa che ti manca di più di lui? Le battute, perché lui faceva una battuta dopo l'altra e uno scherzo dopo l'altro, faceva degli scherzi crudelissimi, divertentissimi, poi si inventava veramente, si inventava delle cose, e poi l'energia, cioè lui era una persona malata, apposta io non mi arrabbio sempre quando gli amici mi dicono ma no, non posso fare quella cosa perché oggi ho l'unghia incarnita. Riccardo Schicchi era una persona che andava in coma ogni 15 giorni, praticamente, infatti ha finito per... Cioè, pochissima la gente muore di diabete a quell'età, perché lui si spremeva e trascurava anche la salute. Ma aveva un'energia incredibile, mi ricordo e l'ho raccontato anche nel libro, un episodio, erano già le 10 di sera perché tanto non si usciva mai dall'ufficio alle 18 come era previsto, alle 10 di sera lui ha avuto un'idea improvvisa, perché non prendiamo Eva, erano già sposati, prendiamo Eva, la portiamo nella fontana di Trevi e farle delle foto nuda. Ho detto sì, ci portano dentro e buttano la chiave. No, perché adesso noi aspettiamo le 5 di mattina e la portiamo lì alle 5 di mattina. E noi entusiasti, io e l'assistente fotografo, ci siamo talmente entusiasmati che l'abbiamo fatto veramente. L'abbiamo portata, abbiamo fatto queste foto e poi le abbiamo distribuite per tutti i quotidiani d'Italia. Sono uscite ovunque. Me le ricordo. Sì, e io mi ricordo quel giorno mi sono messa a dormire sul divano, tra l'altro il divano dove facevano i provini, ragazzi, quindi diciamo era il divano dove se ti sedevi rimanevi fecondata ormai. Adesso poi ho una domanda anche su quello da farti tra poco. Alessandro Bartoletti, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Allora, psicologo e psicoterapeuta, perché abbiamo pensato che ci sono dei. Ah, c'è la viabilità, scusatemi, sono in ritardo su quello. Alessandro, perdonami gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo con te. Il riposo del guerriero. Ecco, Alessandro Bartoletti, psicologo e psicoterapeuta, e, per parlare, è uscito da poco un libro intitolato Lo studente strategico, perché si possono risolvere rapidamente i problemi di studio, cioè l'approccio allo studio non è sempre così facile e spesso è difficile per motivi che non si conoscono e che andrebbero invece conosciuti. Dico bene, Alessandro? Esattamente. Beh, da questo punto di vista potremmo dire che il primo segreto dello studente strategico è guardare allo studio come un problema da risolvere, apre delle possibilità operative di intervento molto maggiori rispetto a quando lo si considera come il prodotto della volontà o della capacità. In altri termini, è un piccolo ma grande segreto che sfata un po' la visione caratterial cognitiva del senso comune. Si pensa normalmente che le difficoltà di studio, di performance scolastica siano dovute o alla mancanza di motivazione oppure all'assenza di capacità. Sì, non Quindi il sono, libro oppure è. non so concentrarmi, non sono capace, è una cosa che non capisco e non ce la posso fare, no? Quella è la giustificazione. Esattamente. Tutte queste giustificazioni però rappresentano una visione molto radicata che è riassumibile nell'idea che o non si hanno delle capacità oppure non si ha la voglia. In realtà il libro è imperniato, sulla base ovviamente della mia lunga esperienza clinica nel campo, sull'idea che le difficoltà scolastiche in realtà seguono due grandi dimensioni, o la paura o il controllo. Ci si blocca o per paura o per eccesso di controllo. E da questo punto di vista noi potremmo definire le varie tipologie di blocco dello studente dall'universitario fino anche al bambino, usando un po' una metafora dantesca, come dei poveri dannati all'interno di gironi danteschi. Possiamo identificare lo studente incatenato, è lo studente che non riesce a concentrarsi, non riesce più a passare neanche 5 minuti sui libri. La manifestazione più evidente è lo stupor di fronte al libro, cioè uno studente che è completamente bloccato, tanto da non riuscire a utilizzare le sue capacità cognitive per concentrarsi. Un'altra tipologia abbastanza classica a cui non si penserebbe mai è lo studente perfezionista, ovvero l'eccesso di meticolosità, l'eccesso di controllo, il timore di sbagliare, il timore di commettere errori che porta per quindi eccesso di zelo a bloccarsi nello studio. Poi c'è la tipologia di blocco per antonomasia, lo studente terrorizzato, cioè l'idea proprio dell'essere interrogato, del sostenere un esame, una cosa che diciamo chiunque sia andato a scuola Quindi conosce molto. l'ansia che quindi blocca poi la possibilità di concentrarsi e di studiare, appunto, e quindi di memorizzare e immagazzinare. Esattamente, il panico da esame, che può avere però due aspetti, sia durante lo studio, quindi un'ansia così anticipatoria che Sì. porta a bloccare la capacità di studiare durante lo studio, sia un blocco al momento dell'interrogazione, che è per certi versi più tipica. Ecco, La classica. Prego. No, dicevo, il libro, a parte catalogare anche il tipo di studenti, studente presunto incapace, studente chimera, ce ne sono cinque, in realtà è dedicato anche ai genitori, perché i genitori hanno dei ruoli. Ad esempio tu definisci, c'è il genitore criticista, il genitore permissivo, l'ipergenitore, che sono comunque atteggiamenti che non fanno bene allo studente. Esattamente, esattamente, anche perché... da un punto di vista strategico, noi come terapeuti lavoriamo sia con lo studente ovviamente adulto, sia con lo studente più giovane, quindi il bambino fino all'età adolescenziale, e si usa un approccio indiretto, non si lavora direttamente con il bambino, ma si lavora direttamente con il genitore. Con i genitori, esattamente. Per cui io distingo anche alcune tipologie di genitore, quando il genitore, diciamo, si trasforma in professore, quale può essere la tipologia che assume. Io definisco il genitore criticista, ad esempio, a quel genitore che è ipercritico, molto aggressivo, rigido. E quindi alla fine questo si tramuta in una impossibilità, tra virgolette, da parte dello studente di portare avanti il suo compito, no? Perché viene bloccato, certo. Esattamente. Il genitore permissivo è l'altra faccia della medaglia. Va tutto bene, anche se non la sai, fa niente. È quel genitore che non segue in maniera corretta il bambino durante gli studi, e quindi sì, va tutto bene, libertà, sì, certo. Come la sai, tu vai e poi vediamo. Esattamente. Non fa poi senso. Esattamente. Poi c'è il cosiddetto ipergenitore, che è il genitore invece iper coinvolto, che è ansioso, preoccupato, si sacrifica, e quindi aiuta per antonomasia. Certo, quindi si sostituisce proprio al figlio e alla fine. Si sostituisce e vive simbioticamente con il figlio ogni passaggio da affrontare, dalla stesura della letterina, al compito in classe, all'interrogazione, lo vive come un problema. Bene, allora Alessandro Bartoletti, lo studente strategico, come risolvere rapidamente problemi di studio. Siamo a maggio, tra poco c'è giugno, poi gli esami, e quindi è il momento giusto per leggerlo e magari mettersi a posto da questo punto di vista e scoprire che non si è incapaci dal punto di vista mentale, ma si è semplicemente incapaci di atteggiarsi e mettere se stessi di fronte allo studio nel modo giusto per poter portare a casa qualcosa. Grazie Alessandro, buona Prego. Domenica, grazie. Debora, tornando al tuo libro, Non dite alla mamma che faccio la segretaria, ti sei mai invaghita, non dico innamorata, però, degli uomini invece che venivano a proporsi? No, ma è un caso, solo perché nessuno degli attori rappresentava il mio... O che hai tentato di conoscerlo meglio, cioè nessuno dice, ah beh, questo no, qua... No, ho avuto per un periodo una... Schicchi mi aveva messo un assistente, un aiutante, e lei si è presa una cotta per un attore... A me non è mai capitato, ho molti amici, sono rimasta amica con Rocco Siffredi, con Francesco Malcolm, praticamente con tutti, però non c'è mai stato del tenero, ma solo perché nessuno di loro rappresentava il mio ideale, il mio, ma non per il lavoro, proprio perché non, anche fisicamente nessuno di loro era il tipo che piace a me non piacciono quei tipi lì. All'epoca, beh, hai detto che però venivano di tutti, anche di quelli se proprio... Vabbè, arrivava di tutto, lasciamo perdere, ho visto delle cose bellissime. Poi Schicchi si divertiva da morire, perché quando capiva che il personaggio non funzionava lo torturava. Apposta, beh, sì, certo. Si divertiva tantissimo. Esistono dei video di questi provini, o sì, mai sono stati distrutti? Sì, oppure... sì, no, ci sono, alcuni sono stati pubblicati, perché a un certo punto lui ha detto condividiamo questo divertimento, e quindi faceva firmare le liberatorie a questi personaggi che facevano il provino, e abbiamo i provini di questi che facevano cilecca e poi si mettevano a piangere, e noi impietosamente li pubblicavamo, li abbiamo allegati a dei giornali, quindi una cattiveria estrema. Però Schicchi era fatto così, era un folletto malefico, che poi capace di grandissima bontà, di grande amore per gli animali, per la natura, per gli alberi. Prima di morire ha fatto piantare un ulivo nel giardino della villa di Eva Enger, e quello è rimasto l'albero che ci ricorda Riccardo, infatti. Che cosa avrebbe fatto Riccardo Schicchi se non avesse fatto quello, secondo te? L'architetto e il fotografo. Lui aveva fatto tutti gli esami di architettura, era un appassionato, lui amava il bello, amava le forme belle, infatti lui diceva che amava le donne perché rappresentavano una delle cose più belle dell'universo, mi ha ripetuto in più di un'occasione, e diceva che noi donne siamo l'armonia dell'universo, mi diceva. e quindi aveva fatto tutti gli esami, poi per protesta nel 68, insomma, aveva gettato la tesi di laurea nel Tevere, non l'aveva mai discussa, quindi era rimasto così, con tutti gli esami ma senza la laurea. E poi aveva fatto il fotografo anche di guerra, aveva fatto parecchi reportage. Io ho visto tutto un suo vecchio archivio con foto fatte allora per Epoca, per giornali, per i news magazine, e quindi avrebbe fatto uno di quei due lavori. Poi ha cambiato tutta la cotta per Ilona Staller, ha fatto prendere tutta un'altra direzione la sua vita. Completamente Eh un'altra, sì. ecco. E tra poco, ecco, cercheremo anche di capire che cosa scatta invece quando ci sono i segreti, quando si vogliono condividere, quando si hanno i propri e oppure si conoscono quelli degli altri con un ospite, 349-238-6666, previsioni del tempo e andiamo avanti a parlare di segreti. Il riposo del guerriero. Serena Basile, psicologa e presidente dell'associazione Dentro un Quadro. Buongiorno Serena, buona domenica. Buongiorno. Allora, quando creiamo un segreto, anzi, ci sono due aspetti, quando veniamo a conoscenza di un segreto e quando invece ne abbiamo uno noi. Quindi cominciamo da quello personale, il nostro segreto. Perché abbiamo così voglia di condividerlo? Beh, allora, se noi abbiamo un segreto, ne siamo consapevoli e vogliamo condividerlo, condividerlo ci aiuta a entrare in relazione con un altro che magari riconosce a ciò che per noi è così prezioso lo stesso valore. Quindi è, come dire, quasi mi viene da dire un po' l'esigenza di essere legittimati nella nostra attribuzione di un valore forte a qualcosa che ci riguarda profondamente. Non c'è il timore, una volta rivelato il segreto, di sentirsi persi? Perché dice, ormai l'ho rivelato, Beh, quindi. questo può accadere, però cioè, in genere se parliamo veramente di un segreto, quindi di qualcosa che comunque è prezioso e che chiama anche il nostro sforzo di proteggere quel contenuto lì, in genere siamo anche sufficientemente accorti nella scelta della persona con cui lo condividiamo. Diverso poi è il caso quando il segreto scappa, fra virgolette, o magari ci viene un po' trafugato. E allora lì sì, puoi decisamente sentirti perso, ma cioè anche con un'attivazione emotiva veramente consistente, proprio di spavento, cioè quasi terrore mi viene da dire proprio, perché ripeto, cioè se per segreto intendiamo quel contenuto preziosissimo che riguarda noi e noi, cioè me stesso e me stesso, allora la condivisione è veramente un passo, cioè che avviene all'interno di una cornice dove la fiducia nell'altro non è messa in discussione. Ecco, quanto nascondiamo noi stessi invece? Allora, qui mi viene da fare un preambolo, nel senso che se noi intendiamo per segreto un contenuto, un episodio, un evento che noi nascondiamo a noi stessi, in realtà stiamo parlando veramente di una delle mille facce della luna. Noi tante volte non nascondiamo a noi stessi soltanto, non so, gli episodi perché la nostra mente non è in grado di ricordarli, ma tante volte ricordiamo gli episodi, ricordiamo quello che ci accade, ciò che viene a mancare è un po' la consapevolezza rispetto a come ci stiamo dentro, quindi a come ci sentiamo, all'emozione, alla sensazione corporea che magari si accompagna a quella cosa lì. Nel senso che poi, cioè a me qui, non so se posso farei quasi un esempio, cioè per rendere un po' l'idea, perché è veramente un concetto incredibilmente complesso, quello del segreto con riferimento al funzionamento della mente umana. Cioè se noi pensiamo, non so, a tutte quelle persone che sono i cosiddetti vincenti nella vita, no? Cioè sono quelli protesi in avanti, che amano il rischio, che si buttano, che come dire, si trovano davanti al loro naso, però sono già lì, che si vedono decisamente altrove e quindi si muovono per arrivare lì in fondo, amano la sfida. Ecco, queste persone magari arrivate ad un certo punto inciampano, non sanno cosa diavolo gli succede, non riescono a capire quel sentirsi che riconoscono nel grado di malessere, ma non riescono a chiamarlo in nessun modo. Ecco, e magari non ricordano neanche quando è cominciata, sanno soltanto che stanno oggi, dopo X volte magari in cui capita, nella difficoltà di ributtarsi avanti. Questo ovviamente è un esempio molto, fra virgolette, stupidino, però giusto per rendere l'idea di questa cosa. Ecco, magari il segreto di questa persona è la paura che provano. e che fin da piccolini non sono mai stati nella condizione di riconoscere, perché insomma le cure parentali, il contesto dove sono cresciuti. E quindi si perdono perché non riconoscono la loro paura, non la vogliono ammettere neanche loro stessi. Non è che non la vogliono ammettere, non hanno, come dire, quegli strumenti per poterlo fare, per poterla riconoscere. E quindi non riuscire a riconoscerla, cioè, porta queste persone poi a sentirsi perdere. Ecco, Serena, scusami, sì. Perché abbiamo poco tempo e sì. Volevo chiederti l'ultima cosa, anche se ovviamente ci sarebbe moltissimo da dire. Assolutamente. E invece quando noi veniamo a conoscenza di un segreto, perché abbiamo così voglia di raccontarlo, di mettere a parte altri? Beh, non dico tutti, è una . Grande generalizzazione. Però, sì, esatto, non dico tutti, però spesso si ha questo stimolo. Esatto, qui posso andare di ipotesi, cioè io non so, vengo a conoscenza di un segreto, quindi di qualcosa che l'altro mi trasferisce come prezioso, e quel che voglio condividere magari non è tanto il contenuto in sé, ma condividere il fatto che sono stata scelta come depositaria di qualcosa di prezioso dall'altro, e quindi ciò che potrebbe spingermi a condividerlo irrimediabilmente. E far capire quanto sono stato preferito. Ecco, sei molto chiara. Esatto. Ecco, invece io tendo a dimenticarmeli i segreti, così poi non li posso raccontare a nessuno. Mi entra una parte e mi escono. Davvero, non sto scherzando. E c'è un'ascoltatrice, credo che Graziella si chiami, che ha scritto un po' la stessa cosa. Me li riferiscono, poi io me li dimentico. Si sciolgono e anch'io me li dimentico. Quindi automaticamente rimangono lì, ma neanche dentro di me. Ecco, se ne sono andato. Grazie Serena Basile, buona domenica. Buona domenica anche a voi, grazie. Salve Deborah, e per chiudere con te, cosa fai oggi? Non sei più ovviamente Sono la segretaria di nessuna no. agenzia di pornostar. Sono giornalista al mensile Marie Claire. Ecco, ti occupi in questo momento? Di attualità, in particolare mi occupo parecchio di violenza sulle donne, di femminicidi, ma anche di cose più leggere. Ho fatto anche interviste interessanti. Ecco, tu mi dicevi che questo libro, Non dite alla mamma che faccio la segretaria, l'hai scritto per le donne anche. Sì, perché ha qualcosa a che fare con Marie Claire, infatti, perché l'idea è venuta 3 anni fa, quando nella mensa della redazione io mi trovavo sempre a raccontare degli aneddoti con tutto il pubblico delle mie colleghe adoratissime, che si divertivano da impazzire e mi hanno spinta a trascrivere queste cose che poi in realtà avevo già scritto, perché io tutto il tempo ho lavorato per Riccardo Schicchi, ho tenuto 11 diari, qualche anno fa avevo già cominciato a metterci mano, e quindi poi mi hanno convinto loro a farlo diventare un libro, ecco, un libro per le donne, in effetti, ha un linguaggio per donne. Scrivevi il diario anche quando eri più piccola? Non so, le medie, le no, io ho iniziato, superiori. No, ho iniziato effettivamente quando ho cominciato a lavorare, quindi... Perché? Ma non lo so, forse perché era una situazione nuova e, a dir la verità, io mi stavo rendendo conto che vivevo qualcosa di straordinario e non volevo dimenticare niente, quello sì. E infatti non ce l'hai fatto dimenticare neanche noi pubblicando il libro. Grazie Deborah Attanasio, non dite alla mamma che faccio la segretaria Sperling, memoria di una ragazza normale alla corte del re dell'Ard. Francesco Mantegazzini, buona domenica. Ciao, buongiorno. Ci sono bene, grazie. Sì, parliamo velocemente della fiera delle start-up il 18 giugno a Milano, perché ci sono segreti anche per cercare di mettere mano al proprio progetto e riuscire a realizzarlo. Sì, è un segreto, così segreto che in realtà è il 17 giugno. 17, sì, infatti ho visto sul sito, giugno. Scusami. È un evento unico perché per la prima volta veramente tutta la comunità startuppara converge verso un punto, grazie al Sole 24 Ore che mette a disposizione i propri spazi e la propria visibilità verso un pubblico più ampio di quello solito, perché moltissimi degli eventi che riguardano startup oggigiorno alla fine vanno a coinvolgere sempre una comunità abbastanza sempre la solita. È un evento molto interessante che dà la possibilità a tanti attori di andare a capire che cosa sta succedendo in Italia, visitare tante delle start-up emergenti di questo momento. Ne avremo probabilmente molte più di 100, ci eravamo dati un target di 100, ma la richiesta di partecipazione è tale che stiamo pensando di allargare appunto il numero di coloro che potranno essere presenti. Fra l'altro prevederemo anche una zona per quelli che abbiamo definito i qualcosatori delle start-up, ovvero tutti quelli che cercano di fare qualcosa di bene per sostenere l'ecosistema delle start-up, quindi incubatori, acceleratori, ma ci sarà anche Confindustria, piccola industria, col nuovo programma Adotta una Startup, ci sarà Back to Work che prevede appunto un nuovo sistema di matching per manager e piccole imprese. Insomma, il Sole 24 Ore sta veramente cercando di dare un aiuto concreto al sistema sia delle piccole imprese che delle nuove imprese, al di là delle parole, diciamo, e tutto quello che già scriviamo sui nostri media. Mi piace molto la fiera, perché quando appunto all'interno della trasmissione, quando si parla di segreti, perché sì, il segreto secondo me alla fine della fiera è un segreto che sta determinando il successo di altri paesi, ad esempio negli Stati Uniti c'è proprio questo concetto che sembra l'uovo di Colombo, però è una mentalità diversa, ovvero il cercare di fare qualcosa di bene per gli altri indipendentemente dal ritorno per se stessi, che è un atteggiamento molto diverso da quello che purtroppo spesso in Italia avviene, dove si cerca prima di guardare al proprio ritorno e poi eventualmente a che cosa si può dare agli altri in cambio. Sicuramente, sei stato molto chiaro. Francesco, tra l'altro c'è la possibilità di partecipare con il vostro progetto, Milano 17 giugno, do il sito, così almeno se qualcuno volesse andare a vedere, fiera-startup.ilsole24ore.com. Sì, perfetto. Grazie Francesco Mantegazzini, buona domenica. Grazie mille, ciao, a presto. Ciao, grazie. Le suggestioni del gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ho subito una suggestione che mi è stata ispirata dalla tua trasmissione. Eccolo di oggi. Bene. A luci rosse. Ed è lo scambio delle coppie. Sì, lo scambio delle coppie è mortadella con champagne. Sì. In questo caso mortadella favola dei fratelli Palmieri Mac. Con lo champagne mettiamo un Dom Perignon 2004 appena uscito, e le ostriche, beh, le ostriche si possono trovare, diciamo, quasi ovunque ormai, con un Lambrusco, Cantina della Volpa, metodo classico, veramente straordinari. Quindi ti ho già dato una suggestione che mi è venuta così en passant ascoltandoti. Le altre due suggestioni di cui parlerò riguardano sempre il vino. Allora cominciamo da un Barolo davvero straordinario, un Barolo riserva Mon Privato, Cad Morissio, della famiglia Mascarello, veramente 2004. Questo è un vino che farà parlare di sé, perché sono convinto che andrà in tutte le classifiche dei primi vini che sono in gestazione in questo periodo. È un vino davvero straordinario, perché è elegante, elegante, è difficile trovare un Barolo elegante. Questa ha una sua eleganza, una sua anche dolcezza di fondo, dolcezza nel senso di non tanto di gusto, ma dolcezza di presentazione. Poi è molto fruttato, è speziato, intenso, ha anche delle note floreali. Ebbene, la famiglia Mascarello, che diciamo tratta vini da oltre 100 anni, e non solo produce questo vino straordinario, ma c'è anche il Barolo Santo Stefano, il Barolo Villero, il Barbera Santo Stefano, e poi anche il Dolcetto e le Langhe Nebbiolo, altro vino veramente eccellente. Quindi Barolo Riserva Mon Privato Cad Morissio 2004. E poi un Montepulciano, un vino prodotto da Uwe Montepulciano nelle Marche dalla famiglia Dezzi, che si chiama Regina del Bosco. Ebbene, l'etichetta Regina del Bosco è sicuramente, diciamo, richiama un po' i contenuti, perché dentro, quando si beve, si sentono i piccoli frutti di bosco, come i mirtilli, i ribes, insomma tutti, si sente veramente il bosco, e questo è veramente interessante. Un'etichetta, una delle poche volte che vedo un'etichetta che si abbina benissimo con il contenuto, poi non solo, poi siccome è un vino molto importante, si sentono anche note di liquirizia, di cacao, insomma è un vino molto, ma molto importante. Anche i Dezzi producono, Davide e Stefano, sono i due fratelli, producono anche altri vini, a cominciare da dei Sangiovesi molto interessanti, anche altri bianchi. Quindi io ho chiuso con le mie suggestioni, che credo magari se qualcuno le volesse seguire. Anzi, ripeto l'appello che ho fatto tempo fa. Sì. Se c'è qualcuno che mi vuol mandare le proprie suggestioni, info@gastronauta.it. E arriveranno. Grazie Davide, buona domenica. Ciao, presto. Ciao, grazie. Aggiornamenti sul traffico, e poi cerchiamo di portarci a casa i biglietti per la mostra di Manet a Venezia. Il riposo del guerriero. Manet in 24 minuti. Pronti quindi a portare a casa i biglietti per la mostra a Venezia, ma nel ritorno a Venezia il numero verde 800 24 00 24, dovete associare il titolo dell'opera di Manet alla canzone che sto per farvi ascoltare. La canzone, eccola qua. We're after the sun. Patrizia, buona domenica, ciao. Sì, ciao. Ciao Patrizia, questa è Moon River, è riconosciuta, cantata da Danny Williams. Tu ce l'avrai presente, cantata da un'attrice, immagino, no? Sì, sì, sì. Chi era quell'attrice, te lo ricordo? Posso fare una domanda? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, certo, il titolo del... Volevo solo chiedere, sì. Il titolo del quadro è proprio simile al titolo del film? Beh, c'è a che fare con... Allora, non no, è, non, dico, è, non è in francese. No, no, beh, lo dice anche in italiano. Non è colazione sull'erba, lo dico subito. Ecco, allora io pensavo alla colazione nell'atelier. E infatti è colazione nell'atelier, nello studio potevi anche dire, ma andava bene lo stesso. È proprio quello il quadro al quale mi riferivo. Grazie per te, biglietti per la mostra. Complimenti Patrizia, ciao. Grazie, grazie. Buona domenica, ciao. Ciao, ciao, ciao. Marina Reggio Emilia, ciao Marina. Ciao. Ti ha fregato la risposta, come sì. Al solito. Vabbè, ma ce n'è un'altra più facile adesso. Sei pronta? Speriamo. Ma sì, senti che bella canzone. La voce inconfondibile di Alberto Fortis, e questa era La sedia di Lillà, una canzone, Marina, che conoscevi, immagino. No. No, un grandissimo successo di Alberto Fortis, tra l'altro una bellissima canzone che noi abbiamo fatto ascoltare solo la parte finale, diciamo così. Beh, si intitola La sedia di Lillà, lui si riferisce alla sedia a rotelle nella storia della canzone, però appunto la chiama La sedia di Lillà. E io vorrei capire quale quadro di Manet potrebbe in qualche modo essere associato a questa canzone. Ma non lo so, Lilla Bianchi. Lilla Bianchi, dici tu? E Lilla Bianchi è... Brava Claudia. Grazie. Buona domenica, ciao. Grazie. Grazie, ciao, ciao. Marina da Reggio Emilia. Pronto Marina? Ciao. Mi senti? Sì, sì. Ok. Beh, Marina, allora... No, sono quella che ho indovinato prima. No, infatti, scusami, mi sono perso. Qual è la linea? Scusatemi, perché... ok, Beatrice da Venezia. Scusami, Beatrice. Perdonami. Niente. Eccoci, perché non sono spariti i nomi delle persone andate in onda e quindi avevo ancora quell'elenco. Perdonami, Beatrice, tocca a te. Allora, abbiamo un'altra domanda alla quale rispondere. Non è però il titolo di un'opera di Manet, è un'altra cosa. Sì. Ma credimi, anche questa è molto facile. Ascolta questa canzone. Sono solo, solo il suono del mio passo. Ma intanto il sole tra la nebbia filtrata, il giorno come sempre sarà. Beatrice, sì. Te la ricordi sta canzone? Vagamente. Ma come vagamente? Ma Beatrice, non si può dire vagamente. Mi ricordo vagamente la PFM, la premiata Fornere Marconi, dai. Non si può dire vagamente. No, questa canzone in particolare. Ma si intitola Impressioni di settembre, ma è forse la più famosa. Vabbè, comunque, l'ho detto io come si intitola. E premiata Forneria Marconi. E la domanda è questa. Manet è sempre stato associato a un, diciamo, a un gruppo, anche se lui non lo rifiutava. Quale, di quale gruppo si tratta? Il gruppo degli? Intende come corrente artistica? Può essere. E gli impressionisti. Brava Beatrice, ciao! Grazie, grazie a te, è grazie, proprio ciao. Così, lui stesso ha sempre rifiutato la collocazione, non ha mai partecipato sì. all'esposizione del gruppo, grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Benedetta Acri, Peter Bescapè in regia e a voi buona settimana da Stefano Gallarini, ci sentiamo domenica prossima alle 10 con Riposo del Guerriero. Oh!